Siamo in collegamento con Massimo Zaurrini, al quale vogliamo chiedere innanzitutto se si può dire, possiamo ritenere che sia tornata la calma, soprattutto in Costa d'Avorio e soprattutto ad Abidjan, dopo 2 giorni di violenze e scontri. Per il momento sì, per il momento gran parte della città, dalle testimonianze che abbiamo raccolto, sembra essere tornata la calma. In alcune zone di Abidjan si è ripreso anche a circolare, qualche mercato ha riaperto timidamente le attività e quindi in alcune zone sì. Diciamo che nel centro della città, nel quartiere Cocody, che è quello che ospita le principali ambasciate straniere e gli uffici governativi, inclusa la residenza del presidente Laurent Gbagbo, la situazione è un po' diversa. Ci sono ancora per la strada intorno alla residenza del presidente ivoriano migliaia di giovani che da ieri hanno messo in piedi una sorta di cordone umano, di scudo umano intorno al palazzo per evitare che i blindati e i mezzi francesi arrivino all'ufficio del presidente. Perché? Perché da ieri circola la voce di una possibile deposizione di Gbagbo ad opera dei francesi, voce smentita ufficialmente ieri da Parigi, che ha detto di non avere alcun interesse e di essere lì solo per ristabilire la pace. Gli incidenti con l'esercito francese sembrano allora indicare che le stesse missioni di pace dell'ONU possono essere inficiate da interessi postcoloniali. Beh, diciamo che la missione francese era iniziata ancor prima dell'arrivo dell'ONU. La missione francese è una missione che comincia subito dopo l'esplosione della crisi ivoriana il 19 settembre del 2002, perché Parigi e Yamoussoukro, la capitale politica della Costa d'Avorio, hanno un trattato di difesa. In realtà da allora, quando il paese era la metà meridionale in mano al governo e la metà settentrionale era sotto il controllo di un gruppo di ribelli sparuto che aveva tentato un colpo di Stato ad Abidjan, che era fallito e che aveva ritirato verso il nord, l'arrivo di un contingente francese, in realtà tutti si aspettavano che si schierasse a fianco del presidente Gbagbo e del governo eletto della Costa d'Avorio, in realtà si misero in mezzo, letteralmente, fungendo da forza di interposizione per evitare quello che già tutti temevano, una guerra combattuta mentre la gente scappava dal nord, si misero in mezzo a questi due fronti, di fatto però congelando un po' quella che era la situazione, quindi non permettendo all'esercito governativo di inseguire i ribelli e dividendo il paese a metà. Ecco, diciamo che la parte degli abitanti della Costa d'Avorio del sud e quelli fedeli al governo del presidente Gbagbo non hanno mai perdonato questo alla Francia. Accusano la Francia di essere dalla parte dei ribelli e accusano la Francia di ostacolare la riunificazione del paese. La Francia, come tutta la comunità internazionale, ha favorito dei colloqui di pace che nel gennaio del 2003 hanno portato alla firma di un accordo appunto a Linas-Marcoussis, vicino a Parigi. Accordo che però entrambe le parti, ribelli e governo, si accusano di non aver rispettato. Nei fatti, dal 2002, dal settembre del 2002, con quel tentativo di golpe, ad oggi la situazione non si è mai ricomposta. Oggi però Gbagbo e i suoi fedelissimi non ce l'hanno tanto con i ribelli che hanno provato a mettere a tacere con la forza nei giorni scorsi, ma con i francesi stessi. Molti sostengono dalla loro parte che appunto dietro la ribellione si trovi la Francia. Perché? Perché negli anni scorsi alcuni contratti commerciali per la gestione di servizi essenziali, non so, pensa all'acqua, all'elettricità, eccetera, ricchezze del paese, contratti che erano in mano a imprese, aziende francesi dai tempi dell'indipendenza, la Costa d'Avorio è un'ex colonia francese, dovevano essere rinegoziati. Ecco, Gbagbo pare che alcuni di questi contratti volesse darli non più ai francesi perché non offrivano condizioni sufficientemente vantaggiose, così è stato giudicato, ma ad altre imprese e ad altri paesi. Per concludere, ti volevo chiedere una valutazione sul tentativo di mediazione del presidente sudafricano Mbeki su mandato dell'Unione Africana e dell'ECOWAS. Quali sono i margini di manovra di questi tentativi di mediazione? Mbeki è sicuramente la figura più alta di politico africano attualmente in circolazione, quindi è un uomo e un presidente stimato su tutto il continente. Quindi penso che nessuno meglio di lui possa avere ascendente sia su una parte sia sull'altra, ma anche con gli stessi francesi e la comunità internazionale. Sicuramente è il presidente a cui la comunità internazionale e i paesi occidentali guardano con maggiore fiducia. Ritengo che aver mandato Mbeki vuol dire prima di tutto rendersi conto della serietà della crisi, perché è stato scomodato, tra virgolette, appunto, ripeto, la personalità politica più alta dell'intero continente, e secondo aver dato la mediazione in mano a una persona che ha indubbie capacità politiche. Certo, la situazione è molto delicata, ripeto, c'è una parte di Costa d'Avorio esasperata, ce n'è un'altra in grande difficoltà, insomma c'è un paese che comunque da 2 anni è come congelato, attività economiche sono saltate per questa crisi, il paese resta diviso in due, i ribelli a nord non intendono disarmare, il governo, insomma la situazione è molto molto molto difficile e questa recrudescenza antifrancese che ha avuto, che ogni tanto è emersa in questi 2 anni di crisi, ciclicamente ritornava fuori, adesso anche lì sembra arrivata a un livello molto, molto più forte rispetto ai precedenti. Quindi resta da vedere, speriamo. Mbeki è sicuramente un'ottima scelta come mediatore, vediamo quanto e cosa ancora si può mediare tra le parti.